Qualcuno si ricorderà dello spot pubblicitario di un'aranciata, roba di un paio d'anni fa al massimo. Si tentava in tutte le maniere di far credere ai bambini, individuati come destinatari dell'aranciata in questione, si tentava di far credere a questi bambini che l'aranciata era un prodotto rigorosamente per adulti, qualcosa che stava solo fra i frutti proibiti dell'Eden e che solo a cari prezzi morali avrebbe potuto essere loro. Il meccanismo è vecchio quanto il mondo e in forma rovesciata risale addirittura fino alla volpe e all'uva. Si attribuisce valore negativo o positivo a qualcosa di cui viene sentita la mancanza. La volpe, animale accorto, dice che intanto è acerba, ma l'uomo, animale notoriamente più ebete, di fronte alla cosa che non può avere, ci soffre e non si dà pace fino a che non lo ottiene. Così anche l'aranciata venne ridotta per la furbizia della propaganda a merce vietata da vendersi solo a chi ha l'età, magari in angolini bui ove la si possa consumare di nascosto. Che poi i ragazzini siano così scemi da cascarci, questo è tutt'altro problema che comunque non va affrontato con eccessiva superficialità. Lo scemo di fatto è molto più diffuso dello scemo a parole. Giorni fa ero ad un convegno di studi dedicato ad uno sport. Si trattava di capire quali fossero i motivi per cui la gente avesse cominciato ad amare questo sport, perché lo seguisse dal vivo ed in televisione, perché ci si appassionasse in misura crescente. E sociologi e psicologi lì presenti, ovviamente non mancano mai, hanno spiegato in 4 e 4-8 come stanno le cose. Lo sport in questione non è violento, è spesso giocato nelle scuole, amatissimo nelle famiglie, non lascia spazio ai trucchi, necessita di forza ma anche di intelligenza, è socializzante, è uno sport in cui non ci si fa male e non fa male a nessuno, induce anche lo spettatore che non vi abbia mai giocato ad acquisirne competenza per meglio seguirne le fasi di gioco. Appare insomma leale, pulito, giovane in quel senso tutto particolare che vorrebbe nei giovani ritrovarsi tutti quanti i valori positivi persi dall'adulto. Tutti d'accordo. Tutti d'accordo sì, ma tutto bene no. Tutto bene no. Salta su uno importante, uno anziano. Uno con pochi capelli in testa, vestito bene, uno che conta, insomma, che conta perché ci mette i quattrini in quello sport, sponsorizzando le squadre, cioè veicolando l'immagine del proprio prodotto tramite l'immagine della squadra che di quel prodotto ha assunto il nome. Orbene, cosa ha da dire questo qua? Il bel Schulpadrun dalle belle braghe bianche che tira fuori la palanca. Cosa ha da dire? Ha da dire che se fino ad ora di vabbè, diciamo che le cose sono andate bene, è ora di cambiare per farle andare meglio, si intende, che occorre cambiare per non accontentarsi di ciò che si ha e per guadagnare nuove fette di pubblico a uguali nuove fette di mercato, che così non si va proprio più da nessuna parte, che occorre come cambiare, va bene, occorre cambiare, e come cambiare ce lo dice lui. Come cambiare? Punto primo, far sparire quest'aria di perbenismo che avvelena lo sport in questione, ma smetterla di farlo apprezzare nelle scuole e dalle famiglie e soprattutto iniettargli in qualche maniera, non lo so, si rivedano i regolamenti, iniettargli in qualche maniera una buona dose di aggressività che in questo momento non ha. Più o meno è come se la mia parrocchia rivestisse la statuina di San Domenico Savio con jeans sdruciti, stivali militari, giubbotto di pelle nera con borchie su canotta traforata, non senza dimenticare un ciuffo verdastro e l'orecchino al lobo sinistro. Ci si arriverà, presto. Basta attendere pazientemente la maturazione delle esigenze di quel mercato tutto particolare che è costituito dalla Chiesa e dai suoi fedeli, ci si arriverà. Allora, voglio dire, qualche grande vecchio, qualche, non dico genio, ma qualche imprenditore del male c'è davvero poi. Qualcuno che, in nome del proprio capitale, fa di tutto per avvelenare la vita, perché genitori e figli stiano peggio di come stanno, beh, qualcuno c'è. Il suo argomento di scolpa è ovviamente quello di dire che la vita è questa e che chi la nasconde è soltanto un ipocrita, se il marcio c'è dobbiamo rappresentarlo, se l'uomo non è fondamentalmente buono che colpa ne abbiamo noi, se gli istinti malvagi ci guidano alla nequizia non possiamo far finta di niente e altre fesserie della serie vita mia, mors tua. Come per l'aranciata, qui il caso è semplice. Si tratta di rendere trasgressivo ciò che non lo è, al puro scopo, puro si fa per dire, di vendere di più. E ciò non ci fa bene, ci umilia e ci divide. Mentre dobbiamo renderci conto che loro sì, per quanto in perenne lotta fratricida, in un fronte, almeno in un fronte, loro sì che sono tutti uniti e loro sono il capitale che in una forma o nell'altra, da industriale, da parlamentare, da vescovo, loro sono il capitale e fanno il possibile per distruggere le basi mentali e culturali della convivenza umana quando da queste non sono periodicamente staccabili le cedoline dei dividendi. Le buone maniere non sono una rendita, come la salute e come la pace, da cui c'è poco da guadagnare.